adesso. Mi dispiace se lascio qua un aggeggio elettronico. Allora, oggi concludiamo la parte, diciamo, di tipo economico, diciamo, come tipo di argomento, o perlomeno la parte di interesse più strettamente economico-finanziaria, con alcune considerazioni sulla crisi. Vi ricordate che ieri abbiamo detto, vabbè, ma dobbiamo sciogliere un nodo: di che tipo di crisi si tratta? Se si tratta di una crisi di tipo temporaneo, parziale, ricorrente, o se si tratta di una crisi... No, ragazzi, per piacere, no. Sapete che non tollero che si parli a lezione. Io non obbligo nessuno a frequentare, però uno scambio di due parole va bene, ma chiacchierare no. Allora, prima di entrare nel merito di che tipo di crisi si tratta, bisogna fare qualche considerazione preliminare. L'economia ha una doppia dimensione, dovete capire questo. Ha una dimensione reale e una dimensione simbolica. La dimensione reale, dal latino res, cosa, è la dimensione delle cose, della materialità dei processi. La dimensione simbolica è quella invece che si basa sulla rappresentazione della realtà. Una statistica non è la realtà, è la rappresentazione della realtà. E come tutte le rappresentazioni può essere sbagliata, parziale, suggestiva, eccessiva, malaggregata. Ci siamo? La dimensione simbolica per eccellenza dell'economia è la moneta, è il denaro, l'equivalente generale, quello che ci permette di scambiare computer con bottigliette d'acqua minerale o con biglietti di tram, stabilendo una scala di equivalenze che permetta di evitare il baratto. Il denaro è dunque il simbolo della ricchezza. Non è la ricchezza, ragazzi, la ricchezza sono i beni materiali. Il denaro ne è la rappresentazione simbolica, esattamente come una statistica. La dimensione finanziaria, a sua volta, è la rappresentazione simbolica del denaro, soprattutto quando opera con strumenti virtuali, come è capitato con i fenomeni della globalizzazione. Ad esempio, vi faccio un esempio solo, ne parleremo molto quando parleremo del petrolio e dell'energia. I contratti cosiddetti future, la vendita di prodotti futuri. Ad esempio, io vendo della soia, mi impegno a vendere ad un acquirente una determinata quantità di soia che io non ho ancora raccolto, anzi non l'ho ancora seminata. Sto vendendo soia futura in cambio di denaro futuro, cioè fra 2 anni io consegnerò una tale quantità di soia a chi mi ha pagato. Naturalmente tutto questo ha un'alea di incertezza, perché ad esempio uno dei contratti di future può essere quello indeterminato dal punto di vista della quantità. È un contratto che per la verità già esisteva nelle campagne diversi secoli fa, ed è l'acquisto del raccolto sulla pianta, quando ancora il raccolto deve determinarsi. Io compro in anticipo il raccolto di quel contadino sulla pianta, cioè quando ancora ci sono le gemme sulla base. Oh, naturalmente poi succede che se il raccolto è abbondante è andata bene per me, e il contadino sì, ha venduto a meno di quanto avrebbe potuto vendere se avesse venduto al raccolto effettuato, però in compenso ha avuto un guadagno sicuro. Se invece l'annata è andata male e il raccolto è scarso, è andata male per me che pago un prezzo unitario più alto, ma è andata bene per il contadino che si è assicurato un guadagno più alto di quello che avrebbe avuto se avesse dovuto vendere poi un raccolto scarso. Questo è in nuce il concetto del future, che poi molto più raffinatamente si è affermato in seguito. Come vedete, qui siamo alla vendita, allo scambio fra valori virtuali. Io sto vendendo la produzione di petrolio fra 3 anni contro denaro che tu mi darai fra 3 anni. Il petrolio è la rappresentazione di un bene reale. Il denaro che io darò, e che mi impegno a dare, è la rappresentazione di una rappresentazione. Mi sono spiegato? Quindi è la dimensione simbolica in qualche modo al quadrato. È chiaro? In tempi la finanza vive essenzialmente di scambi fra rappresentazioni, fra simboli. La politica economica e soprattutto la politica finanziaria normalmente in periodi, diciamo, di relativa stabilità si svolge sotto la dominante simbolica, quindi sotto la dominante della moneta e della rappresentazione. I governi decidono, ad esempio le finanziarie, no? Il gettito fiscale, sulla base di che cosa? Di quello che presumeranno che accadrà nei processi futuri del prossimo anno sui bisogni di spesa e possibili entrate. In qualche modo quindi lavorano su una rappresentazione della realtà che per esempio gli viene data dai modelli econometrici. Le banche decidono di concedere un mutuo sulla base di una serie di valutazioni, quindi in qualche modo sulla rappresentazione di una realtà futura e così via. Nella maggior parte dei casi il dibattito politico-economico, sia dell'operatore singolo, della banca, del gruppo finanziario, dell'azienda, sia dell'operatore pubblico-politico, avviene come dibattito su valori simbolici. È chiaro, su aggregazioni immaginate. Ci sono però, e questo nella maggior parte dei casi funziona, ma ci sono dei momenti in cui si impone la materialità dei processi, la materialità dei processi prende la mano, si manifesta una rivolta delle cose. Cos'è la rivolta delle cose? È una formula che è stata proposta a proposito della crisi del 29. È l'improvvisa manifestazione di una scarsità. Qualche bene prima o più beni prima disponibili, delle fonti di ricchezza prima largamente disponibili, all'improvviso per una ragione qualsiasi diventano scarse. Come può accadere questo? O per un evento naturale, per esempio, un cattivo raccolto, una catastrofe ambientale, una catastrofe climatica, un'esplosione demografica o un'epidemia, ad esempio. Oppure perché c'è l'improvvisa epifania, cioè la manifestazione, la visualizzazione della falsità delle rappresentazioni su cui ci stiamo muovendo. Spesso accade, guardate, le società non funzionano solo sulla base di conoscenze oggettive, vere e verificate. La società spesso funziona su una serie di autoinganni, su una serie di finzioni giuridiche, ad esempio. Uno degli autoinganni classici è quello prodotto nelle società moderne dalla burocrazia, che è una grande produttrice di schemi simbolici. Funziona tutto sulla carta. Non è detto che però quello che c'è scritto sulla carta corrisponda alla realtà. Noi come università italiana sulla carta abbiamo un discreto funzionamento, se però poi andassimo a verificare cosa c'è dietro quei numeri forse le valutazioni sarebbero meno ottimistiche. Ci sono dei momenti in cui noi sappiamo essere false le rappresentazioni, ma per convenzione decidiamo che è più opportuno far finta che non lo siano e andare avanti. Ma ci sono dei momenti in cui la rivolta delle cose svela improvvisamente che la rappresentazione che ci siamo fatti è falsa. Ad esempio, un esempio di natura completamente diverso dalla crisi finanziaria, il crollo dell'Unione Sovietica. Il crollo dell'Unione Sovietica è un classico esempio, per certi versi, di quando un autoinganno di una società si svela. Voi sapete che l'economia sovietica era basata essenzialmente sulla pianificazione e si reggeva su un sistema fortemente burocratizzato, una struttura burocratica di partito, di Stato e di economia, per cui ad esempio si registravano i valori della produzione. Ogni azienda, repubblica, riceveva un obiettivo di produzione da conseguire in acciaio, in carbone, in cotone, eccetera. E ovviamente il mancare quell'obiettivo avrebbe avuto conseguenze assolutamente spiacevoli per il presidente di quella repubblica, per il segretario del partito di quella repubblica, per il dirigente di quell'azienda e così via. Accadeva quindi che molto spesso le statistiche fossero assolutamente perfette, indicassero non solo il raggiungimento dell'obiettivo prefisso, ma addirittura il suo superamento. Peccato che sempre di più non è stato vero e i magazzini erano pieni di cotone immaginario che non c'era, per esempio. Questo accadde in particolare col cotone nelle repubbliche asiatiche. In Uzbekistan ci fu un particolare caso. A un certo punto i negozi delle città erano assolutamente vuoti, non c'erano merci. C'erano pochissime merci e cominciava a fiorire un grande mercato nero. A questo poi si aggiunsero tutta un'altra serie di processi politici e sociali, la rivolta delle nazionalità minori, la pressione politica, la sconfitta nel confronto con gli armamenti, con l'Occidente, eccetera, eccetera, che portò all'implosione, al tentativo tardivo di riforma di Gorbaciov e quindi poi al collasso del sistema. Ecco, quello è un caso in cui quello che è un'autorappresentazione che ci siamo fatti della realtà improvvisamente viene svelato dai fatti, negozi vuoti. Negozi vuoti, la gente che inizia a non credere nel sistema, il crollo di legittimazione del sistema politico ed economico. Questo è un esempio di rivolta delle cose. Bene, noi abbiamo detto che c'è una differenza fra le crisi ricorrenti, parziali e temporanee e quelle ad andamento catastrofico. La differenza essenzialmente è questa: nella crisi ricorrente, parziale e temporanea, il sistema si autoaggiusta, registra lo scompenso, riesce a compensarlo nuovamente e riparte generalmente a un livello di stabilità superiore. Un po' come le malattie hanno l'effetto di vaccinare le persone, soprattutto le malattie a carattere virale. Voi sapete che è molto difficile riprendere la stessa influenza, perché l'organismo ha neutralizzato quel particolare virus, quindi si è immunizzato. Le crisi temporanee hanno un effetto paragonabile, se mi passate questo paragone un po' semplicistico. Le crisi hanno l'effetto di vaccinare in qualche modo il sistema, restituendone il livello di stabilità a un livello più alto. Le crisi catastrofiche sono quelle invece nelle quali il sistema non riesce ad autoriparsi, non ce la fa e si spezza. Questo rompe un sistema di comando sia nell'economia che in politica. Le rivoluzioni sono una manifestazione di questo. Quando il sistema non riesce a recuperare, questo in genere si manifesta sotto forma di diffusa delegittimazione, e a quel punto si spezza, dando luogo a una riorganizzazione della società sulla base di un sistema di comando diverso. Può anche provocare però effetti, non è detto che la nuova organizzazione sociale parta a un livello più alto della precedente. In genere nelle rivoluzioni moderne, parlo della rivoluzione olandese, francese, americana, inglese, russa, cinese, di solito i paesi che hanno registrato una rivoluzione si riorganizzano conquistando una posizione più forte nel sistema internazionale degli stati. Pensate alla rivoluzione cinese, ad esempio, è un classico esempio in questo senso. Un po' meno la rivoluzione russa per gli esiti finali, la rivoluzione francese invece ha segnato appunto un lungo periodo di egemonia francese sull'Europa. Ecco, questo è un esempio di come una biforcazione catastrofica ha provocato una riorganizzazione sociale che colloca il paese a un livello più alto, più forte nel sistema internazionale degli stati. Ma non è sempre così. La caduta dell'impero romano d'Occidente non restituì un ordinamento sociale più avanzato e più forte, ma si discute se il Medioevo sia stato veramente i secoli bui, come una tradizione storiografica un po' orografica ci dice, o meno, ma in ogni caso sicuramente non fu un periodo di particolare crescita e sviluppo delle società europee. In altri casi ci sono paesi che hanno avuto implosioni. Il caso della rottura del sistema liberale in Italia e del fascismo provocò momentaneamente un rafforzamento dell'Italia nel sistema internazionale degli stati, ma ebbe un esito finale, direi, di tutt'altro segno. In realtà si trattò di un'unica grande crisi, di un'unica guerra civile iniziata nel 19 e finita nel 45. Per certi versi continuata virtualmente anche dopo. Bene, allora, noi di fronte a che tipo di crisi ci troviamo? È una crisi che mette in discussione gli assetti di potere esistenti o no? Intanto registriamo alcuni dati su cui siamo d'accordo tutti. Sicuramente questa crisi presenta un volume e dimensioni monetarie senza precedenti. Da un punto di vista semplicemente dell'ordine di grandezze, abbiamo a che fare con una crisi che non ha precedenti, ad esempio nell'indebitamento degli stati, nei crack bancari, nel fabbisogno del simbolo denaro. Dicono i cinesi, la dichiarazione di 3 giorni fa, ma guardate che nel mondo non esiste denaro sufficiente a ripianare il disavanzo di tutti gli stati. Già, non sarebbe un grave danno, perché il denaro lo emetti, buonanotte, tra l'altro ormai non c'è neanche più bisogno fisicamente di stamparlo, perché voi sapete che ormai il denaro è una unità virtuale, lo puoi semplicemente creare in internet. Quando voi avete un conto in banca, non è che andate in banca e ci sono le banconote che voi avete portato conservate nella cassaforte. In banca c'è semplicemente, voi avete un numeretto che vi dice che avete una possibilità di attingere entro una certa quantità. In qualche caso ritirerete delle banconote come col bancomat, in altri casi che farete? Farete un assegno, che è un altro numeretto che voi state scrivendo, che verrà versato su un conto, e quindi in realtà il denaro cartaceo non c'è proprio nel passaggio dall'amministrazione sul mio stipendio, dal mio stipendio il versamento che io faccio sul conto della signorina qui di rimpetto, e lei il versamento che fa sul conto del suo salumiere e del suo padrone di casa. Quindi il denaro è facilmente producibile, è una voce. Il problema è che dietro quel denaro non c'è ricchezza reale, è qui che si innesta il problema del se siamo a una crisi in qualche modo temporanea o se siamo a qualcosa di più importante, di più radicale. Ecco, vedete come comincia a profilarsi il problema della crisi come rivolta delle cose, ed è quello di cui noi parleremo in questo corso. Ancora, seconda cosa, sicuramente siamo d'accordo sul fatto che la crescente interdipendenza dei mercati ha comportato effetti generalizzati della crisi, per cui la crisi è crisi mondiale. Facciamo un paragone fra il 29 ed oggi. La crisi del 29 investì le economie degli Stati Uniti e dell'Europa, prevalentemente l'Europa occidentale e centrale, ma molte aree del paese e del mondo, in parte l'America Latina ne fu coinvolta, ma molti paesi erano possedimenti coloniali, altri paesi erano abbastanza al di fuori, pensiamo per esempio alla Cina. E non fu una crisi mondiale, certo erano mercati meno significativi dal punto di vista dello scambio delle ricchezze, ma comunque fu una crisi molto più circoscritta geograficamente, pur se relativa ai mercati più importanti. Qui invece abbiamo una crisi, non c'è un fuori da. Il mondo è tutto investito dalla crisi. È forse giusto alcuni paesi particolarmente depressi del Centro Africa o cose del genere, ma insomma. Non solo, altro elemento, questa crisi ha il carattere, riflette la velocità dei processi finanziari indotti nella finanza dall'adozione delle tecnologie informatiche e dall'applicazione di livelli di formule di calcolo particolarmente sofisticate. E un esempio capita proprio come il calcio sui maccheroni. Ieri a Wall Street, quanti di voi hanno letto il giornale oggi? Siamo a posto, 5, bene, leggete il giornale. Allora, ieri alla borsa di Wall Street cosa è successo? A un certo punto uno dei procuratori della Procter & Gamble ha emesso un ordine di vendita che doveva essere di 16 milioni di dollari. Avendo battuto il tasto sbagliato, ha emesso un ordine di vendita di 18 miliardi di dollari. Il risultato è stato una catastrofe di dimensioni impreviste. Anzitutto il titolo Procter & Gamble è crollato nel giro di mezz'ora del 39%. Dopodiché questa improvvisa richiesta di questo improvviso assorbimento, peraltro solo profilato, di denaro, ha attivato sia i sistemi informatici che sono già pensati, programmati in modo tale che di fronte a una perturbazione che vada oltre certe dimensioni reagiscono emettendo automaticamente la vendita di una serie di titoli in modo da arrivare prima degli altri e vendere in condizioni più favorevoli. Vuol dire che si sta profilando una corsa alle vendite e l'evento genera se stesso un classico esempio di feedback positivo, rafforzato dalla fragilità dei nervi degli operatori di borsa, un po' per la difficile situazione finanziaria internazionale, la crisi greca, tutto quello che sapete, un po' perché i nostri operatori di borsa sono dei giovanotti dai nervi un po' fragili e di non grande consistenza, devo dire, professionale. Parlo essenzialmente di quelli che lavorano sulla borsa di Wall Street. E il risultato è stato questo: nel giro di poche ore la borsa di Wall Street è crollata di 9,5 punti, un crollo di dimensioni. Dopodiché, dopo 5-6 ore, qualcuno si è accorto dell'errore, lo ha corretto, la borsa ha recuperato 6 punti, ma ha comunque chiuso con una flessione di 3,5 punti, che in una giornata non è esattamente un bel risultato. Significa che sono andati in fumo parecchie centinaia di milioni di dollari. Ora, in parte questa flessione ci sarebbe stata comunque per effetto della crisi greca, per effetto dell'andamento dei mercati, ma in parte questa è stata prodotta, è stata accentuata, è stata incrementata da questo stupidissimo errore che ha trovato un formidabile moltiplicatore nella velocità degli scambi. Se fossimo stati nella vecchia borsa di Milano, che voi non avete mai visto, non quella in cui si facevano, adesso gli ordini si fanno al computer, anzi addirittura il computer va davanti da solo, allora perfetto silenzio, tu sulla tastiera con un movimento di mouse acquisti o vendi, no? All'epoca il salone della borsa di Milano era qualcosa di molto simile al mercato ortofrutticolo, dove la gente sbraita 3, 2, 1, acquisto, vendo, eccetera. Però gli operatori della Borsa di Milano del tempo erano persone dai nervi molto più solidi. Probabilmente di fronte a una cosa del genere, di fronte a un'improvvisa vendita di una quantità di quel genere, 16 miliardi di dollari, avrebbero reagito prima di prendere qualsiasi decisione cercando di capire che stava succedendo. Invece oggi le tecnologie informatiche e il bisogno di arrivare prima degli altri, ecco quello che vi avevo detto due lezioni fa, la velocizzazione, l'accelerazione dei processi finanziari, il bisogno di lavorare sulla previsione fondamentale, ha prodotto un effetto particolarmente devastante. Quindi abbiamo un sistema molto più fragile proprio perché molto più veloce, più facile ad andare fuori di strada. Ancora, abbiamo una dimensione globale di questa crisi, non solo nel senso della mondialità, ma nel senso della globalità dei livelli. È una crisi nella quale, come vedremo in tutto il corso, si intrecciano elementi economici, sociali, politici, militari. Quindi abbiamo di fronte una crisi che ha un elevato livello di ingovernabilità. Questa è una constatazione comune, ci guardiamo in faccia e sappiamo che quello che decidiamo oggi produrrà effetti non del tutto prevedibili già dopodomani. Questo, vi ricordate cosa vi ho detto all'inizio sulla previsionalità e governabilità delle crisi? Ecco, questo è un esempio del fatto che siamo di fronte a una crisi difficilmente prevedibile, dunque difficilmente governabile. Si è parlato a questo proposito di tempesta perfetta, non so se avete mai sentito questa espressione sui giornali o alla televisione. Quando ci fu la crisi del 2008 si parlò di tempesta perfetta. Cos'è una tempesta perfetta? È un classico esempio, torno fino alla noia a usare questo genere di linguaggio, di esempi. Una tempesta perfetta è un classico esempio di feedback positivo, cioè è l'evento che genera se stesso. Facciamo un esempio per capirci, perché io faccio sempre i conti col fatto che voi economia la state facendo solo adesso, e allora sono costretto un po' a banalizzare. Facciamo l'esempio di cos'è una tempesta di mare e cos'è una tempesta di lago. Voi sapete che le tempeste lacustri sono le più violente, sono più violente delle tempeste degli oceani, pur muovendo masse d'acqua infinitamente più piccole. Una tempesta si produce quando, per effetto del gioco delle maree prodotte dall'attrazione lunare, per effetto di eventi atmosferici come improvviso surriscaldamento oppure un movimento di grandi masse d'aria, eccetera, si scarica una notevole quantità di energia cinetica sull'acqua, per cui si crea un movimento ondulatorio. Appunto, voi ricordate la differenza che vi ho fatto fra movimento continuo e movimento ad onda? Il movimento continuo è quando uno stesso oggetto si sposta, il movimento ad onda è quando una particella, spostandosi, ne muove un'altra, che a sua volta ne muove un'altra e così via. Ecco, la tempesta si produce in questa maniera, si produce attraverso un movimento ondulatorio. Questo movimento ondulatorio, estremamente intenso all'inizio, in mare aperto finisce per scaricarsi onnidirezionalmente, quindi verso masse d'acqua sempre più consistenti che assorbiranno l'onda di energia cinetica, e quindi alla fine la tempesta si calmerà. Le masse d'acqua investite dall'onda d'urto saranno sempre maggiori e assorbiranno l'onda stessa. Nel lago invece che cosa succede? Che l'onda va a rifrangersi contro la sponda e trova un ostacolo rigido che rimanda indietro l'energia. Voi sapete giocare? No, figurati. A biliardo? Sì. Meno male. Una bella notizia. Voi sapete che si gioca, per esempio, a biliardo molto di carambola, di rimbalzo, cioè tu urti di sponda urti con la palla la sponda che rimanda indietro la palla. Solo una piccola parte dell'energia impressa viene assorbita dalla sponda, il resto viene poi restituito con un movimento di direzione contraria o comunque diversa. Nella tempesta lacustre succede essenzialmente questo, per cui l'evento riproduce se stesso e quindi naturalmente ci mette molto di più a calmarsi, perché hai un continuo urtare di sponda, chiaro? Ora, tornando fuori dal nostro esempio, la globalizzazione ha trasformato l'oceano in lago, tutto il mondo è diventato un lago, non c'è più un fuori dai mercati mondiali che assorba in qualche modo la perturbazione. Ormai nel lago la tempesta è più violenta di prima, è più violenta di quanto non sarebbe accaduto se fosse stato un mare aperto. Per la stessa ragione per cui la globalizzazione ha prodotto processi di sviluppo accelerati senza precedenti nella storia economica dell'umanità, per la stessa ragione produce processi di crisi molto più veloci, molto più generalizzati, molto più devastanti. È esattamente la stessa cosa. La globalizzazione è vettore di crescita, è stato vettore di crescita, è vettore di crisi. Quindi prendiamo atto di queste caratteristiche di questa crisi: volume e dimensioni, interdipendenza, velocità, globalità, elevato livello di ingovernabilità. Tutto questo produce una tempesta perfetta. Cos'è una tempesta perfetta? Una tempesta per la quale una serie di effetti producono fra di loro un effetto domino. Sapete cos'è un effetto domino? Una tessera cade e fa che, come i birilli che cadendo, allora c'è una crisi energetica, come possiamo rispondere? Ad esempio con le energie rinnovabili, le biomasse, ma le biomasse significa sottrarre terreno all'agricoltura, quindi in qualche modo accelerare la scarsità di cibo. La scarsità di cibo probabilmente produrrà effetti migratori, gli effetti migratori produrranno effetti di destabilizzazione economica, sociale, politica e così via. Cioè ogni evento, ogni perturbazione ne produce un'altra a un livello diverso e alla fine si riproduce attraverso la svalutazione, di nuovo crescita del prezzo dei combustibili fossili e così via. La tempesta perfetta è esattamente questo, è una tempesta che riproduce se stessa fino a quando un qualche evento esterno non spezzi questa spirale. Allora, fatta questa premessa, cerchiamo di capire quali sono i punti critici del sistema in questo momento. Guardate, la politica può essere un fatto estremamente complicato, ma alla fine è un fatto molto semplice. La politica ha sempre due o tre punti su cui ci si scontra e l'economia non è diversa. In fondo noi parliamo appunto di economia politica, ha un senso questo. Alla fine quello che conta è capire quali sono i punti su cui ci... è come una battaglia, non si combatte dappertutto, ci sono dei punti in cui lo scontro tocca il suo vertice, perché conquistare quella collina o quel ponte significa acquisire un rapporto di forze definitivamente favorevole che permette di vincere la battaglia. Bene. La battaglia qui si sta svolgendo, a mio avviso, essenzialmente su tre punti. Primo, il sistema di potere monetario a livello internazionale e la battaglia sul dollaro. Detto chiaro, chiaro, il punto è questo. Poi entriamo nel merito. Secondo, la battaglia è sul potere della banca. Il potere della finanza rispetto all'economia reale, rispetto alla società, rispetto alla politica. Quello che mi avete chiesto ieri, ma come può accadere che l'economia detti l'agenda alla politica. E questo è il punto. Chi detta l'agenda? Chi decide cosa è importante da affrontare prima e cosa è meno importante da affrontare dopo? Chi decide se la misura da adottare è una svalutazione piuttosto che invece una rivalutazione di una moneta, eccetera? Nel mondo della globalizzazione, del neoliberismo, il potere si è decisamente, l'asse del potere si è decisamente spostato dalla politica verso l'economia. Oddio, non è mai totale lo spostamento, cioè sempre, anche quando la politica aveva più potere, diciamo, l'economia aveva, il mondo della finanza aveva il suo spazio decisionale. Diciamo semplicemente che l'ago della bilancia si è spostato in questi decenni verso la finanza. Infine, il potere dei manager. Io vi ho detto che i protagonisti della rivoluzione neoliberale, neoliberista, sono stati i manager in questi anni. Non tanto la proprietà, quanto l'apparato manageriale di gestione. E questo, per esempio, ha avuto un suo riflesso nelle straordinarie retribuzioni dei manager. Quindi il potere dei manager rispetto all'azienda nel suo complesso, quindi anche rispetto alla proprietà, intendiamoci, rispetto al lavoro, rispetto alla società. I punti sono questi tre. Allora, sul primo punto, che cosa sta succedendo? Sul primo punto il problema si pone in questi termini. Gli Stati Uniti fin qui hanno retto un livello di spesa, di indebitamento, retto essenzialmente dal fatto che la loro moneta è la moneta di scambio internazionale, la moneta di riferimento del mercato internazionale, per cui mentre gli altri dovevano comprare dollari per comprare petrolio, loro dovevano solo stampare i dollari con cui compravano il petrolio. Tutto questo è stato alla base, come vi ho detto, delle bolle finanziarie, del credito al consumo, immobiliare, del credito al consumo, eccetera, eccetera, che abbiamo avuto in questi anni. Significativamente però adesso la bolla si sta spostando, la bolla speculativa, dalla bolla immobiliare, dalla bolla al consumo, eccetera, si sta spostando verso le commodity. Le commodity, sapete, sono, diciamo, le materie prime: petrolio, oro, stagno, ferro, zinco, litio, palladio, frumento, caffè, cacao. Queste sono le voci principali. Non è un caso che, come vedete, la bolla immobiliare è ancora una bolla altamente simbolica, perché il valore che noi diamo alle case, all'area fabbricabile, sì, certo, c'è una materialità, la casa, l'area fabbricabile, però c'è un surplus che è dato dall'apprezzamento che noi facciamo di questi beni. Allo stesso modo in cui il credito al consumo è una bolla fatta su una scommessa, sulla capacità che i consumatori un giorno riusciranno a pagare il debito che stanno contraendo con noi. Sulle commodity invece ci stiamo spostando sulla logica delle cose, avvertiamo il problema della scarsità di questi beni, e non è un caso. In questo quadro abbiamo un conflitto che si è aperto fra la maggiore potenza economico-finanziaria, politico e militare attuale, gli Stati Uniti, che però appaiono come una potenza sfidata, un impero sfidato se non addirittura in declino, e il gruppo di tre paesi emergenti, più un paese che potremmo definire riemergente, i cosiddetti paesi del BRIC. Il BRIC è Brasile, Russia, India, Cina, dove Brasile, India e Cina sono le tre potenze emergenti, e la Russia è una potenza che sta riemergendo dopo la crisi degli anni 90, che l'aveva retrocessa in una posizione di una certa marginalità. Questi quattro paesi, i BRIC, il cosiddetto BRIC, che al quale qualcuno vorrebbe aggiungere una S o una I finale, la S di Sudafrica o la I di Indonesia, hanno chiesto il superamento dell'attuale sistema di scambi, sostituendo al dollaro una moneta virtuale, chiamiamola gold per capirci, non esiste, non c'è nessuna banconota che si chiami così, una moneta virtuale che dovrebbe essere acquistata presso la Banca Mondiale, basata su un sistema di parità fra le 7-8 monete più importanti del mondo: euro, dollaro, yen, rublo, rupia, renmin, yuan e così via. Sulla base di queste monete dovremmo in qualche modo sulla parità reciproca di queste monete dovremmo stabilire, sostanzialmente è un ritorno allo modello, allo standard aureo, dove però non c'è l'oro come realtà fisica, ma c'è ancora una volta un'entità simbolica, la moneta virtuale. Allora, la moneta virtuale significa banalmente questo, significa che gli Stati Uniti perdono uno dei due principali punti di forza della loro posizione nel sistema internazionale. Gli Stati Uniti hanno due grandi punti di forza: l'esercito più forte del mondo, la moneta più forte del mondo. Tra l'altro non è difficile immaginare che il crollo della moneta più forte del mondo, perlomeno la perdita del controllo dell'ordine monetario internazionale attraverso il controllo della moneta strategica, asse dell'intero sistema, provocherebbe una contrazione delle spese anche militari e comprometterebbe su un periodo medio o medio lungo anche il predominio di carattere militare. Voi capite che gli Stati Uniti non sono eccessivamente entusiasti di questa prospettiva. E infatti a quell'orecchio sembra che l'amministrazione americana non senta semplicemente, non c'è neppure una replica in questo senso. Quindi la battaglia è molto intorno al dollaro ed è la battaglia del sistema internazionale di stati. Quindi prima di tutto a rischio è il sistema, i rapporti di potere nel sistema internazionale di stati. Prima cosa. Seconda cosa, abbiamo detto che c'è una crisi che investe il potere della finanza e qui c'è un problema. Alla finanza noi abbiamo consentito, attraverso la deregulation di cui vi ho ampiamente parlato in questi giorni rompendovi l'anima, attraverso la concessione di strumenti finanziari sempre nuovi, sempre più sofisticati, sempre più opachi, come le varie forme di pagamento di cui vi ho pagato, i vari titoli di cui vi ho parlato in questi giorni, ricordate le CMO di cui vi ho parlato ieri, eccetera, vi ricordate quello che ho detto ieri, vero? Ecco, no, queste cose potrebbero provocare un crollo nell'autostima. Allora, noi abbiamo consentito alla finanza una libertà d'azione di spostamento dei capitali, per esempio, tale che per esempio ha accompagnato e incrementato i fenomeni di delocalizzazione industriale, eccetera. La finanza di fatto ha guidato la politica economica dei paesi. Il consenso di Washington attraverso le proposte di privatizzazione, liberalizzazione del commercio, eccetera, cos'era se non uno spostare l'asse decisionale della politica economica in ambito finanziario dall'ambito politico, un sostanziale svuotamento, almeno parziale, ecco, diciamo, della sede politica in cui si assumono le decisioni. È riproducibile tutto questo? Ad esempio, questo in alcuni paesi si è proposto sotto forma di nazionalizzazione delle banche. Beh, se dobbiamo pagare i conti loro, se lo Stato deve pagare i conti loro, è giusto che le banche vengano nazionalizzate, vengano statalizzate. Questo però sarebbe la sovversione dei principi neoliberisti, una sorta di eresia. C'è chi pensa momentaneamente statalizzate, rimesse in piedi e poi riprivatizzate. Di fatto ieri o avantieri c'era un articolo sul Corriere, credo ieri, in cui un banchiere sdegnato diceva che questa improvvisa rivolta contro le banche è un'ondata di neopopulismo. E forse è un'ondata di neopopulismo, però guardate che il populismo spesso si produce quando c'è un tradimento delle élite, quando le élite perdono credibilità. E in questo caso noi siamo di fronte al crollo della credibilità delle élite finanziarie. Beh, questo disastro qualcuno lo ha provocato. È classico di tutte le élite al potere quelle di, come comportamento, quello di rifiutare la responsabilità di quello che hanno fatto. Non è colpa nostra, è la situazione oggettiva. Questo ve lo dirà chiunque. Ve lo dirà il rettore dell'università che non riesce a far funzionare l'università, ve lo diranno i magistrati che non riescono a far funzionare decentemente la giustizia, ve lo dirà il presidente del Consiglio che non riesce a impedire il degrado del paese, ve lo dirà il segretario del partito che ha perso le elezioni e dirà: ma non è perché abbiamo sbagliato noi, è l'elettorato che non ha capito. Questa è una delle certificazioni classiche di potere in crisi, che non ha proprio più nulla da dire, è la colpa degli altri che non hanno capito. Alla stessa maniera anche le banche rifiutano un'assunzione di responsabilità del loro operato e la crisi è come la pioggia, qualcosa che è venuta dal cielo, che non si capisce bene chi ha creato e perché. E dunque si pone il problema del... Ecco, vedete come torniamo a una cosa che vi ho detto all'inizio. Globalizzazione sì, perché ci sono una serie di fattori oggettivi che vanno in direzione... L'esistenza di Internet presuppone una capacità di comunicazione mondiale da cui non torni più indietro. I problemi ambientali sono problemi globali di tutto il pianeta e così via. Il problema però è, sì, globalizzazione va bene, ma esiste una sola forma di globalizzazione, quella del potere della finanza? Siamo sicuri che questo è l'unico modo attraverso cui il mondo globalizzato possa funzionare? E questo è un argomento di scontro che si sta aprendo, sia fra i diversi modelli economici, perché guardate che qui si fa un grosso errore, ne parleremo, di pensare che la Cina sia un paese, un capitalismo strano, a partito unico, vabbè, però adesso gli passa questa cosa, a partito unico diventa, ecco, l'Occidente imperfetto in via di perfezionamento. Non è così, la Cina è un modello di organizzazione politica, sociale ed economica a sé stante, attenzione a non fare errori. Quindi c'è uno scontro anche fra modelli di economia diversi. C'è uno scontro sociale all'interno dei paesi, ecco quell'ondata di populismo contro le banche di cui vi parlavo, di cui parlava l'indignato banchiere economista di ieri. C'è poi il problema dei manager. È sostenibile il fatto che continuino a ricevere retribuzioni di questo genere? Retribuzioni, guardate, che attraverso il meccanismo delle stock option addirittura prescindono dai risultati. Sono tutte pensate peraltro a termine breve, per cui il risultato è che ci troviamo, poi lo vedremo, una serie di aziende che hanno prodotto profitti anche ingenti nel breve periodo, però si sono giocate completamente il capitale fisso, perché per esempio non hanno rinnovato il parco macchine, non hanno fatto manutenzione. Vi faccio un esempio, vi ricordate che ieri io vi ho parlato di un contratto particolare, no? Il contratto leverage, l'LBO, ve lo ricordate, quello per cui tu compri un'azienda e la paghi poi col cash flow della stessa azienda, no? E vi ricordate che l'esempio che vi ho fatto è stato quello della Telecom. Il risultato qual è stato? Che Tronchetti Provera ha comprato la Telecom con i soldi della Telecom, però utilizzando il cash flow della Telecom, cioè la bolletta del telefono che voi pagate, ha trascurato l'aggiornamento tecnologico dell'azienda, non solo, e la manutenzione. E quello è un settore nel quale un ritardo tecnologico di 10 anni significa che finisci definitivamente fuori mercato. un ritardo nella manutenzione lo paghi molto più salato dopo. Ecco, la managerialità attuale è stata questa, è stata la managerialità del pensiero breve, del profitto immediato, incapace di pensare in termini strategici. È ancora accettabile questo? Bene, su tutto questo si è aperta una partita. Per esempio, sulla riforma della finanza è in atto uno scontro negli Stati Uniti, così come c'è uno scontro fra il BRIC e gli Stati Uniti sul dollaro. Sulla riforma della finanza è in atto uno scontro al Parlamento, al Congresso degli Stati Uniti, dove le notizie dicono che sono già al lavoro 1400 lobbyist, che sono più dei parlamentari, cioè ogni parlamentare ha un lobbyist e mezzo addosso, tutto per lui, che lo condiziona e gli offre soldi, perché in realtà voi capite, stiamo toccando compagnie assicurative, banche d'affari ed investimento, banche di raccolta, stiamo toccando le agenzie di rating, stiamo toccando tutto questo, voi capite quale massa di interessi si sta muovendo e quindi tutte le lobby degli Stati Uniti sono mobilitate, ma è ovvio. Alla stessa maniera, sul potere dei manager, per esempio c'è stato quasi dappertutto uno scontro anche del Parlamento italiano sul fatto di tagliare un po' le retribuzioni. Il tutto è terminato col fatto che gli abbiamo tagliato le unghie, gli abbiamo un po' spuntato anche i capelli un po', cioè la sfumatura un po' più alta gli abbiamo fatto, perché i manager hanno mobilitato le loro lobby facendo pressione, devo dire bipartisan, devo dire che in questo si sono distinti entrambi gli schieramenti politici senza distinzione. Perché ragazzi, il problema quando voi dite ma come si esce dalla crisi? Ma il fatto è che noi non stiamo discutendo alla ricerca del migliore dei mondi possibili nella Repubblica dei filosofi di Platone. Noi non stiamo discutendo fra angeli che cercano disinteressatamente la soluzione migliore per il mondo. Noi stiamo discutendo nel cuore di un violentissimo scontro di interessi, di interessi incrostati. I manager non intendono mollare un millimetro del loro potere, e appresso a loro c'è per esempio la grande industria del lusso, l'unica industria che in questi anni è andata avanti a gonfie vele, crisi o non crisi, l'industria che produce i preziosi per esempio, i gioielli firmati, l'industria che produce il turismo di lusso, quello degli alberghi che vanno oltre i 5 stelle, l'industria che produce per esempio le barche. Ormai la barca è uno status symbol che qualsiasi imbecille che non saprebbe neanche nuotare si sente in dovere di comprare, perché diversamente è sminuito e magari la tiene alla vasca da bagno, però tutto sommato è un elemento fondamentale di autoaffermazione simbolica. Ecco, vedete come l'economia e la politica e la società sono fatte i simboli, Bene, l'industria del lusso va avanti perché c'è una classe, ne parleremo, la super class, che è quella che con i suoi livelli di reddito l'alimenta. Ma se l'anima della super class chi sono? Sono i manager. Se noi andiamo a limare i loro compensi va in crisi anche quell'industria. E allora voi capite che c'è qualcuno che si associa a qualche altro, un pacchetto, un blocco di interessi sociali che si muove. Ecco perché noi siamo al centro di uno scontro e il discorso è: ma questo scontro che cosa avrà alla fine? Ci sarà la restaurazione dello stesso blocco di potere, degli stessi equilibri di potere, o si romperà qualcosa nell'azienda, nel rapporto fra finanza e politica, nel rapporto fra stati? Difficile da dirsi. Perché io ritengo che noi siamo di fronte a una crisi di sistema. Quale sia l'uscita è difficilissimo immaginare, non credo però che l'uscita possa essere una semplice restaurazione dell'esistente, magari un po' rivisto. Noi siamo di fronte ad alcune cose che ancora, un conflitto che non si è ancora dispiegato apertamente e pienamente. Per esempio, siamo di fronte all'intreccio delle economie Cina-USA, che da un lato sono per loro natura confliggenti, perché ovviamente la Cina sfida gli Stati Uniti sia in sede politica che economica per la conquista della supremazia. Però nello stesso tempo la Cina non può del tutto fare a meno, non può augurarsi una sconfitta degli Stati Uniti verticale, perché la Cina nelle sue casse forti ha il 23% dei titoli di debito pubblico americano che ha comperato, e quindi se quel debito pubblico crolla come valore si trova un mucchietto di cenere. Certo, è un paese che ha fortissime risorse, però sarebbe un'emorragia consistente. Non solo, ma gli Stati Uniti sono il principale mercato di sbocco della Cina. Se c'è un crollo brutale, a chi vendono? I cinesi in prospettiva sanno di dover sviluppare il loro mercato interno soprattutto attraverso l'espansione del livello d'acquisto alle regioni interne. Finora la Cina moderna che spende è la Cina della costa, è la Cina delle città sulla costa. Il problema è conquistare la Cina dell'interno, ma questo ha bisogno di tempo. Tempo durante il quale la Cina non ha interesse a un crollo rapido dell'economia americana. Trovare mercati alternativi, sì, dove in un momento di crisi? Ecco, vedete che la Cina da un lato sfida gli Stati Uniti ponendo il problema del dollaro, però dall'altro non può premere oltre certi limiti perché diventerebbe autolesionistico. E però questo livello di conflitto imbrigliato che non riesce né a trovare conciliabilità né a rompere del tutto, questa situazione di interessi parzialmente conciliabili è una situazione a tempo destinata prima o poi a sciogliersi, a rompersi. O c'è una conciliazione, cioè si trova un livello per cui l'integrazione delle economie cinese e americana, magari a spese dell'Europa, trova un suo punto di equilibrio e allora va bene, avremo un certo tipo di soluzione. Oppure non c'è questo punto di caduta e allora probabilmente la rottura e il conflitto prevarrà. Il problema è dove? Non è detto che sia solo economico. Il problema è, guardate, i terremoti, voi sapete, che avvengono lungo le linee di faglia delle grandi zolle, su cui le grandi placche su cui si articola il mondo, no? Le placche continentali. Il problema è capire, e il conflitto, di solito il terremoto si manifesta quando lungo le linee di faglia si rompe la crosta che mantiene una certa stabilità e l'urto produce l'energia geotermica che porta ai terremoti. Bene, in questo caso, sempre per restare nella metafora, dobbiamo capire dove si aprirà la faglia. Si aprirà fra Europa e Stati Uniti, si aprirà fra Stati Uniti e Cina, per esempio a livello di quale sarà la geografia. Attualmente abbiamo un sistema molto simile, molto più simile che a quello uscito dalla Seconda Guerra Mondiale, bipolare. Abbiamo un sistema paragonabile a quello che ha preceduto la Prima Guerra Mondiale. Un equilibrio multipolare con una geografia di alleanze variabili. Abbiamo una geometria variabile di alleanze. Sapete che nella Prima Guerra Mondiale l'Italia era alleata di Austria e Germania, però poi entra in guerra dall'altra parte. Sapete che ci sono potenze neutrali che vengono risucchiate da uno dei due blocchi, eccetera, eccetera. Qui la situazione è ancora più precaria perché, se fate caso, abbiamo un sistema di alleanze sovrapposte fra i vari, ne parleremo, fra i vari G20, G8, G7, NATO, equilibri vari, patti vari, eccetera, abbiamo un sovrapporsi di alleanze, di patti che si intersecano uno con l'altro. Il problema è capire se il conflitto dovesse diventare radicale fino a opporre degli schieramenti, qual è la linea di faglia che disegna i due principali schieramenti. E dunque, a decidere questa apertura di faglie saranno probabilmente proprio le cose, la dialettica delle cose. L'esplosione demografica, la disponibilità di cibo, la disponibilità di acqua, di petrolio, le materie prime, questo in gran parte, l'andamento del clima. È probabile che noi dovremo fare i conti, e questo personalmente mi fa pensare che siamo di fronte non a una crisi temporanea di quelle ricorrenti, parziali, ma che siamo di fronte a una crisi di lungo periodo che dagli esiti poco prevedibili, ma che è facile prevedere segneranno una cesura storica. Quello che probabilmente scatenerà questo, rompendo la faglia su cui si svilupperà lo scontro, sarà probabilmente la rivolta delle cose, e di questo parleremo nel corso, in gran parte. Parleremo della rivoluzione demografica che c'è stata, del problema della ricchezza, energia, cibo, problemi ambientali e delle sfide che si pongono. Magari dopo parliamo del caso greco come prima manifestazione di questa crisi, ma io credo che se voi vi orientate a fare gli analisti, come si immagina che la scelta di questo corso di laurea, forse fatta un po' inconsapevolmente, vi dovrebbe destinare a fare, prima di tutto dovete acquisire questa capacità di lettura di quello che accade. La storia, ve l'ho sempre detto, non si occupa del passato, usa il passato per capire il presente. La storia è sempre storia, neanche contemporanea, è sempre storia simultanea, è capacità di capire il presente. Vi ho sempre detto che l'obiettivo di questo corso non è farvi imparare un po' di date, di nomi e di fatti, ma insegnarvi a ragionare in termini storici, in questo caso in termini analitici. Per me è un esame nel quale mi sapete rispondere a tutte le domande: quando è stata la guerra del Kippur e quando è stato eletto Reagan? Non è un esame ben fatto, anzi difficilmente vi sentirete fare domande del genere. A me interessa che voi vi troviate di fronte a una copia di giornale o a una mappa, a una cartina, e sappiate ragionarci su. La partenza di questo ragionamento è stato tutto quello che abbiamo detto sulla struttura economica della globalizzazione, che termina in questa crisi che è attualità, è storia simultanea, che però richiede la conoscenza del passato perché si decifrino le possibili direttrici di marcia. Allora, forza, domande, discussioni, dissensi, cosa c'è? Forza. Per quanto riguarda i punti già. Sì, lo so. Okay. Ormai sì. Per quanto riguarda i punti critici dello scontro, io volevo chiederle. I punti dello scontro? Sì, dello scontro attuale sulla crisi. In quanto è credibile degli scontri, in quanto è credibile il brief, nel senso. Innanzitutto a me sembra che la loro proposta non sia molto differente da quella di Keynes. Nel momento in cui si doveva costruire l'FMI, dopo la seconda guerra mondiale, proponeva una banca mondiale che fungesse da mediatrice tra debitori e creditori e che avesse una unica moneta di conto, se non sbaglio. In conseguenza non mi sembrano proposte né troppo innovative né troppo realizzabili in un futuro immediato. E poi non so quanto queste potenze che abbiano comunque di fatto interessi anche differenti fra loro, mi sembra, possono cooperare e costruire un blocco all'interno del blocco dell'Unione attuale. Sì, poi posso collegarmi a una domanda? Dimmi. Le alleanze variabili non sono, cioè sono totalmente variabili, nel senso che magari l'Europa è alleata, tra virgolette, dal punto di vista militare con questo Stato, dal punto di vista economico però più vicino a un altro, quindi potrebbero anche esserci degli scambi. Ci sono. Da questo punto di vista? Sì. esattamente quello che sta succedendo. Dimmi, Molinelli. Quello che ha detto lui, allora, che non so, Orwell ce l'ha visto un po' giusto con il libro 1984, quando si diceva non siamo mai stati alleati con l'Eurasia, siamo sempre alleati con l'Estasia, la pagina d'opera al contrario. Una cosa del genere sta avvenendo adesso. Io però avevo un'altra domanda. Allora, ieri alla radio, perché sentivo che ieri la borsa di Milano ha perso tutta la capitalizzazione che aveva accumulato negli ultimi 10 mesi. E io, vabbè, adesso va bene che ragioniamo sul virtuale, però se non ricordo male ci deve essere una legge fisica che dice che nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma. Che fine hanno fatto i soldi persi? Quando si dice sono andati in fumo, sono bruciati, cosa succede? Da qualche parte non hanno andato. Poi, beh sì, arrivavo a termine, è una domanda banale. Secondo la sua opinione, l'errore di ieri è stato un errore? Cioè, qualcuno ci guadagna sempre su questo. Poi, in questo settore esce dal mercato, eppure la Telecom non solo non è uscita dal mercato, ma è riuscita a rinnovare la propria offerta sempre tenendo la stessa tecnologia di anni e anni. Io ho sentito diversi utenti della Telecom lamentarsi perché dovevano allacciare la loro tecnologia nuova, i loro router nuovissimi, a cavi sfilacciati in rame messi su 40 anni prima. Quindi in un certo senso si può dire che non è più tanto automatico l'uscita dal mercato per non innovazione, quando puoi innovare altro, in questo caso penso io al marketing. Mi dica il nome. Caterina. Galli. Testi. Scusi? Testi Caterina. Mi scusi, la prima domanda me la chiarisce meglio? Cioè, nel senso, gli Stati Uniti sono stati uniti già da un bel po' di anni. L'Europa è comunque ancora, secondo me, in un'ottica di paesi uniti insieme, nel senso che comunque vabbè, non ha ancora un più quindi forte. Quindi non potrebbe essere che in un conflitto scontro l'Europa potrebbe avere il dolore? Detta molto brutalmente. Sì. Ma proprio perché cioè, ripensando un po' alla storia della Comunità Europea, era in mente che prima comunque la Comunità Economica Europea, quindi diciamo che è nata sostanzialmente per motivi economici, in primo istituto, perché poi solo con i trattati, adesso c'è arrivato il Trattato di Lisbona che permette questa cosa. Non è invece l'errore per il fatto che la Comunità, cioè l'Unione Europea, cioè, è iniziata proprio con potenziando le strutture economiche, di relazioni economiche tra gli Stati. È vero che poi sono lasciati. Poi, dimmi Gualandri, poi. Allora, due domande. La prima è se la globalizzazione sia, secondo me, un dato di fatto totalmente irreversibile. Cioè, lei ha parlato di alleanze, a geometria variabile, però diciamo che questo mondo multipolare in realtà, cioè, secondo me, è un mondo in cui si vanno creando delle alleanze regionali molto forti, cioè il processo di integrazione dell'America Latina, l'Asia nel sud-est asiatico, sono blocchi che magari potrebbero avere, creando delle monete proprie, come stanno cercando di fare per esempio in America Latina, come c'è stato fatto in Europa, potrebbero avere una loro autonomia interna e creare modelli di sviluppo differenziati l'uno all'altro, perché quindi la sovranità monetaria internazionale non sia più il se c'è la possibilità che la sovranità monetaria internazionale, che può essere il dollaro, ma che non venga sostituito da un gold, dallo yuan o dall'euro, ma da tante monete regionali, e che chiaramente questo può, anzi ha risvolti politici per economici. E poi un'altra domanda che ho fatto anche a Wolle, le ripeto anche a lei, cioè questi due modelli, cioè il modello tradizionale capitalista occidentale e il modello capitalista cinese, o comunque il modello cinese, sono due modelli che in un certo senso hanno avuto espressioni in qualche modo autoritarie, quello cinese in senso politico più stretto, quello occidentale come egemonia degli Stati Uniti. Se c'è, secondo lei, una possibilità della creazione di un, se c'è spazio per la creazione di un modello politico e economico non autoritario. Scusa, mi ricordi il nome? Bene, sì. Rispetto al discorso che faceva lei sulle elite che non vogliono mai mettere le loro colpe, il dubbio che io mi sono posto in questi tempi, senza riuscire a trovare una soluzione, è: in Grecia la crisi a chi è imputabile? Perché nessuno se ne prende la responsabilità. Quello che esce dai giornali è che la colpa è di un contratto sociale che era eccessivamente esteso. Cioè, siccome avevano troppi soldi i poveri, è quello del sistema, in pratica, adesso sui giornali. E poi la domanda espansa è, oltre a chi è la colpa in Grecia, è: ma per i paesi più poveri, le economie più deboli dell'Unione Europea, essere entrati nell'euro li ha trasformati in parassiti delle economie forti o in periferia, trattino colonia, di queste economie forti, che sono Germania in particolare? Allora, fermiamoci un attimo qui, che c'è già molta carne a cuocere, perché sono la bellezza di 9 domande. Cercherò di rispondere trasversalmente. Allora, un gruppo di domande tocca il tema dell'euro e dei rapporti con gli Stati Uniti. Cioè, il problema è: ma l'euro può diventare concorrenziale agli Stati Uniti? L'euro che effetti ha avuto sui paesi marginali? L'Europa esiste come realtà politica? Allora, ragioniamo su questo. Questo incrocia poi il discorso delle cosiddette alleanze variabili. Probabilmente dovrò in qualche modo... Intanto vorrei togliere di mezzo però alcune cose facili. Vediamo un po'. Ma Molinelli mi dice: scusa, ma che significa quando i soldi vanno in fumo? Qualcuno, quello che perde uno, per definizione, deve guadagnare un altro. Molinelli, qui arriviamo al discorso dei valori simbolici. Il denaro è simbolo, è fumo. Semplicemente il fumo va in fumo. non riviene questo sospetto. Il problema è, quello è uno dei momenti di epifania in cui viene fuori che dietro quei simboli non c'è ricchezza. E quindi quello brucia in qualche, perché sei costretto a svendere, che significa bruciati 500 milioni di dollari. Non è che sono impazziti, sono andati nel cortile della borsa, hanno messo tanti dollari, li hanno accesi, magari con loro sopra. No, non è questo. È successo semplicemente che a un certo punto lui ha cominciato a vendere il suo titolo. Inizia una corsa a vendere, allora io cerco di assorbire il denaro che c'è vendendo i miei titoli al 10% meno di quello che valevano ieri. Lui a questo punto, visto che lui ha iniziato a vendere, deprezza i suoi titoli del 15%, li vende al 15% in meno. Lei a questo punto, vista l'andazzo, vende al 20% in meno. Alla fine che cosa succede? Che i nostri titoli sono scesi di valore complessivamente. Abbiamo bruciato, ma bruciato in che senso? Nel senso che è venuto fuori che dietro quei titoli c'era niente. Cioè è venuta fuori la scommessa, qualcuno ha detto vedo, ed è venuto fuori il bluff. Chiaro? Quando va in fumo è perché era fumo. Capisce? Perché è ovvio che questo mette in moto delle tendenze, diciamo imitative, ma non è che c'è un bruciare di beni reali, non è che va in fumo una fabbrica, chiaro? Semplicemente stiamo svalutando una moneta, dei titoli di banca, eccetera, eccetera, per cui c'è una perdita di valore, ma di valore nominale ovviamente, chiaro? Quello che però è obiettivamente una patologia, perché nel momento in cui c'è un collasso del genere, questo può mettere in moto tendenze molto pericolose alla svendita e poi ti portano al fallimento di aziende reali e a gente messa in mezzo alla strada. Il 29 è questo. Quindi attenzione, anche il crollo non è che è da prendere così alla leggera il fatto che si sono bruciati 500 milioni di dollari. Va bene, è un fatto virtuale, però attenzione, perché siccome l'economia vive di simboli e i simboli incidono sull'economia reale, quello poi ti può provocare comunque una recessione, eh? È chiaro? Orwell aveva ragione? Orwell ha avuto ragione su tante cose, però qui il discorso è un po' più sofisticato e lo riprenderemo quando parleremo della disunità del mondo. Io spero di avere come ospite qui il professor Colombo, col quale farvi una lezione a due voci. Non so se avremo il tempo di fare tutto questo, ma spero di riuscire a fare una cosa un po' diversa. Il professor Colombo, che insegna in questa facoltà, ha recentemente pubblicato un libro della Feltrinelli, La disunità del mondo, che io ritengo un libro molto eccellente per capire, le dinamiche politiche del mondo della globalizzazione. Ve lo segnalo, comunque se riusciamo a fare una discussione. Puoi ripetere il titolo? La disunità del mondo. Allora, è credibile il BRIC? Dunque, attenzione, è un'aggregazione temporanea, evidentemente, che allea dei paesi ricchi o di materie prime o di manifattura. La Russia ha il gas, il Brasile ha una serie di materie prime, Brasile, India e Cina hanno gran parte della manifattura esistente, quindi in qualche modo hanno interesse ovviamente a rivalutare le loro prestazioni e quindi hanno una comune convergenza contro il dollaro obiettiva. Ci siamo? La loro proposta no, non è molto innovativa, siamo d'accordo. Ciò non di meno è una sfida al dollaro e all'equilibrio mondiale, monetario mondiale. Ce la faranno perché poi sono divisi da altre cose? Sì, sono divisi da altre cose, ma questo è uno di quei casi in cui devi capire dove si apre la linea di faglia. Se la linea di faglia spacca il BRIC, oppure il BRIC riesce a imporre quella anche agli altri e isolare gli Stati Uniti. È un gioco tutto politico, che ti dice come economia e finanza non sono isolabili dalla politica. Questa è una vendetta della politica sulle teorizzazioni dell'autonomia del mercato. Vedi come le dinamiche economiche di mercato, in questo caso dei mercati monetari, hanno il loro centro, il loro baricentro nella dimensione politica. E i tanto deplorati stati nazionali dati come relitti del passato riemergono come protagonisti della scena mondiale. Cosa succederà? Lo stiamo a vedere. Io non sarei tanto scettico sulla sfida del BRIC. La sfida del BRIC è una sfida che va presa molto sul serio, anche perché gli Stati Uniti sono obiettivamente in difficoltà. Quindi questo vedremo un po' come andrà, ma fa parte delle discussioni che faremo in questo corso. Errore di ieri, era un errore o gli è scappato apposta? Tutto può essere, non abbiamo elementi di informazione. Dovremmo presupporre però che qualcuno o ha avuto un interesse a speculare e a guadagnare su questo crollo, ad esempio acquistando azioni sotto costo, però non sembra che ci sia stata incetta di azioni da parte di qualcuno, per ora non lo so, non sono poi un operatore di borsa, quindi non ho una visione analitica di quello che è successo. Io ho l'impressione che però nel complesso, se di questo si è trattato, è stata una mossa molto azzardata, perché in un momento in cui i mercati sono già fortemente perturbati, una mossa del genere non è che di per sé sai dove va a parare. Quindi io credo che in realtà si sia trattato effettivamente di un errore, ma non è rilevante. La cosa più rilevante non è se qualcuno ha fatto un errore o peggio ancora lo ha fatto apposta. La cosa rilevante è la reazione isterica che hanno i mercati, per cui di fronte a un errore vero o simulato reagiscono in questa maniera totalmente irrazionale. Cioè sei in mano a un branco di ubriachi. Il concetto è questo. Il fatto è che io credo che fra gli operatori di borsa giri troppa cocaina. La Telecom, attenzione, perché la Telecom in crisi è, non è che abbia risolto i suoi problemi. La battaglia sulla rete del cavo di rame è una battaglia tutta politica, perché lì il valore della Telecom è il controllo della rete, un po' perché è la rete su cui poi tu fai le intercettazioni così incidentalmente, l'ultimo miglio famoso, ma questo è relativo, un po' perché quella è la rete su cui tu puoi far passare il digitale terrestre ed è quello che salva gli imperi televisivi, il futuro della televisione è quello. Perché l'accordo sul satellite è facile farlo, e perché lì hai una serie di opzioni possibili, e invece la rete del doppino di rame, quella è una, e chi ci mette le mani su ha un vantaggio di monopolio. Quindi attenzione, perché lì no, c'ho già abbastanza carne al fuoco dopo. Quindi attenzione, perché nel caso Telecom c'è una sovrapposizione di una dimensione politica, una dimensione economica, una dimensione tecnologica, una dimensione informativa, di intelligence. Quindi attenzione, che la storia è molto più complicata. D'altro canto è vero che Tronchetti Provera ha fatto quel giochino, però è anche vero che è stato relativamente limitato il danno che è riuscito a produrre. Beh, veniamo al discorso dell'euro. L'euro è un'idea sbagliata, realizzata male. Ma da che cosa nasce? Nasce dall'idea del, vabbè, l'Europa politica, sì, c'ha tempi lunghi, lasciamo per, fa parte della vittoria delle banche sulla politica, dell'economia, della dimensione simbolica del denaro sull'economia reale. Per cui noi costruiamo la forza dell'Europa intorno a che cosa? A una moneta sganciata, non riusciamo a farlo Stato? Non è importante, facciamo la moneta. La riserva qual è? La riserva neanche troppo di taciuta, che si capiva. Farne una moneta concorrenziale al dollaro. È evidente. Una moneta forte, stabile, che alleava alcune delle economie più forti del mondo, la Francia, la Germania, l'Olanda, in parte l'Italia, però i tedeschi non ci volevano dentro, facendo una moneta che possa contrappesare per peso economico quella americana. Tieni conto che all'epoca non c'era alcun'altra moneta che potesse reggere il confronto. Lo stesso yen, che pure dopo avrà una crisi, ma all'epoca era piazzato abbastanza bene, però comunque non aveva il peso politico sufficiente a poter sfidare il dollaro. La Cina era ancora di là da venire, la Russia si stava avviando allo sfascio, India e Brasile nessuno prendeva sul serio neanche che esistessero, sommersi dal debito, soprattutto il Brasile. Nasce così l'idea dell'euro e per un certo periodo l'euro esercita questo potere di attrazione, nonostante l'insipienza delle sue classi politiche. L'Europa è stata un'operazione di furbastri, per cui da un lato si cerca di fare le scarpe agli Stati Uniti dal punto di vista monetario, dall'altro però si giura sulla inscindibile alleanza politico-militare con gli Stati Uniti attraverso la NATO. Il risultato è che, per esempio, quando Saddam Hussein ha rotto il fronte ed è stato il primo a offrire, offrire petrolio in cambio di euro e non di dollari, l'Europa non ha approfittato di questa occasione, anzi ha lasciata cadere e ha partecipato alle coalizioni della guerra del Golfo. E io non escludo che una delle motivazioni americane della seconda guerra del Golfo sia stata proprio quella sfida rappresentata dall'offerta di petrolio in cambio di euro. Allora, l'idea era comunque, era un'idea a metà. Perché era un'idea stupida? Perché era basata sull'idea della moneta senza Stato. Ma una moneta senza Stato può avere anche delle economie forti dietro, ma è una moneta politicamente debole. Tant'è vero che quando si sono profilate crisi internazionali che potevano avere incidenza anche sui mercati monetari, l'Europa non è esistita. Ma allora anche la moneta del BRIC sarebbe una moneta? Il BRIC non ha una moneta. No, ma il BRIC propone una moneta mondiale come equivalente, cioè sostanzialmente sta proponendo un rapporto di parità più o meno fissa, variabile, fra 7-8 monete, per quello per cui tu non puoi comprare il petrolio coi dollari, devi comprarlo con una moneta virtuale che devi comprare anche tu. E se il tuo, se il dollaro, la tua moneta valeva 10 ieri e poi hai cominciato a emettere troppa massa monetaria, oggi non vale 10, vale 8. Chiaro? Vale meno di ieri. Un gold compra non più 10, al contrario, pardon, volevo dire, se ieri ci volevano 10 dollari per comprare un gold, a questo punto ci vorranno 13 dollari, chiaro? E quindi compri meno petrolio, questa è l'idea. L'idea era un po' quella di fare dell'euro la moneta sfida. E questa operazione è stata clamorosamente sbagliata, perché una moneta non è solo una moneta. Ecco l'idea dell'economia senza politica, l'idea della finanza che prevale sull'economia reale e che detta l'agenda alla politica, alla cartina di tornasole viene fuori come un'idea perdente. La moneta senza Stato è una moneta debole, e lo vediamo nella crisi greca, ora ne parliamo un attimo. È stata un'idea sbagliata, personalmente sono sempre stato contrario all'euro, ho anche scritto, andava benissimo l'operazione, si poteva rivedere la vecchia operazione ECU, per cui l'Europa aveva una sua moneta virtuale che era l'ECU, no? A cui erano agganciate, secondo un modello di parità fissa, le monete dei singoli stati, salvo il fatto che a un certo punto si poteva anche lasciarle fluttuare, per esempio la svalutazione che noi faremo nel 93. quello probabilmente si poteva migliorare quel patto monetario, e invece l'istituzione di vera e propria moneta ha introdotto un elemento di rigidità straordinario nell'economia del continente. E per di più è stata un'idea sbagliata, realizzata male. Realizzata male perché ha messo insieme un'insalata assolutamente disomogenea. L'idea era quella che questo avrebbe provocato una convergenza, guardate ancora una volta questa idea, per cui la Sicilia e la Danimarca, Cipro e la Scozia, l'Andalusia e la Ruhr sarebbero diventate più o meno la stessa cosa. Non mi pare che il risultato sia andato in questa direzione. La colpa del crack greco di chi è? Forse i greci consumavano troppo? Diciamo, rispetto al livello di sviluppo economico, probabilmente avevano un livello, una rete di protezione sociale, fra virgolette, eccessiva. Ma non è questo. In realtà quello è uno dei casi in cui ha pesato enormemente la corruzione. È uno dei casi in cui ha pesato enormemente una serie di spregiudicatissimi giochi finanziari. E la colpa di chi è? È certamente del governo greco precedente a quello attuale, che ha falsificato i bilanci. Però la colpa è anche dello stesso progetto di moneta, perché è vero che quel progetto presupponeva una straordinaria rigidità di bilancio, per cui non potevi fare tanto disavanzo, per cui non potevi fare tanto debito pubblico, per cui eccetera eccetera eccetera. Il piccolo problema è che però tu BCE non avevi la possibilità di mandare gli ispettori a vedere se il bilancio era falsificato o no, te lo dovevi prendere come te lo davano. Quindi, tanto per cominciare, c'era una debolezza di fondo, che era il fatto che dovevi stare per forza sulla valutazione, sul bilancio che lo Stato, che ogni singolo Stato ti offriva, di fatto. Secondo, quegli Stati poi offrivano un bilancio certificato dalle agenzie di rating. E voi sapete chi ha garantito per la Grecia? La Goldman. E capirai, se garantisce la Goldman siamo sicuri. La verità è che tutti sapevamo che i bilanci greci erano, per così dire, piuttosto fantasiosi, creativi, per usare il linguaggio di Tremonti. Il risultato però è che conveniva a tutti far finta che non fosse così, perché negli anni dell'euforia monetaria, e volete turbare l'euforia delle borse con notizie così antipatiche come il fatto che c'è uno Stato che emette bilanci falsi, quando poi c'è stata la crisi, e la crisi del dollaro, dei mutui, sconsigliava di aprire troppi fronti contemporaneamente. Tutti insieme le agenzie di rating si sono accorte, guarda un po', che i titoli greci non erano più affidabili e hanno cominciato a declassarli. E visto che c'erano, nel giro di pochi giorni hanno declassato, in tre giorni hanno declassato i titoli greci, quelli spagnoli e quelli portoghesi. È un caso questo? Allora, diciamo le cose come stanno. La verità è che gli Stati Uniti, allora, intanto si parla di un attacco della speculazione, ma la speculazione cos'è? La pioggia, una grandinata, cos'è? Se c'è una speculazione ci sono degli speculatori, se ci sono degli speculatori ci sono dei nomi e cognomi e ci sono dei fini e degli scopi. Attenzione, perché non sempre, allora, la speculazione può avere interessi di breve periodo. Ad esempio, voglio realizzare dei profitti semplicemente giocando sullo scambio di monete. Deprimo una moneta in modo da poter acquistare un controvalore di azioni di una determinata azienda o giochi di questo genere. Questa è la speculazione a breve, che si accontenta di un guadagno. Ma ci sono anche speculazioni che hanno in testa disegni di lungo periodo. Ad esempio, nel 2012, io vi ho già detto, arriva un momento di scadenza importante nel quale probabilmente saremo costretti a emettere, non tanto noi quanto gli americani e gli inglesi, a emettere denaro per ripagare i titoli in scadenza che corrisponde a niente. Può il dollaro in una situazione del genere sopportare la sfida dell'euro? E questo è il problema, perché guardate che tuttora la moneta che può preoccupare il dollaro se non c'è una moneta virtuale è l'euro, non il renminbi o la rupia, o sono paesi ancora di sviluppo troppo recente. Il rublo è, insomma, ha un sistema politico che ha i suoi livelli di fragilità. Come facciamo a fidarci a investire su monete del genere? Quindi chi può realmente rappresentare una sfida che innesca un deprezzamento del dollaro e l'euro? Allora, se tu inizi una speculazione per cui massacri prima la Grecia, il Portogallo, la Spagna, l'Irlanda, l'Italia, i paesi baltici, che poi significa la Svezia, le scelte sono due: o sbatti fuori questi paesi dall'euro, e però dopo un po' di tempo è finita l'Unione Europea, come fatto politico non c'è più, non che esista granché, ma significa pace su questo ed è ridimensionato l'euro, oppure soccorri questi paesi e ce la fai a soccorrere ciascuno di questi paesi. I guai cominciano con l'Italia, pensate, se devi soccorrere la Grecia che è il 2,5% del PIL dell'Unione, poco male. Portogallo non è molto di più, già la Spagna è un problema più serio, ma se devi soccorrere l'Italia che rappresenta il 12,5% del PIL dell'Unione Europea, e il peso comincia a diventare molto maggiore, e guarda caso ieri la speculazione ha attaccato le banche italiane. In questo caso tu che cosa fai? Sì, forse l'euro riesce a reggere, ma stai svuotando la cassaforte dei paesi forti, della Germania, dell'Olanda, della Francia, e fai arrivare l'euro al 2012 senza fiato. Questa è un'operazione di guerra monetaria che gli Stati Uniti stanno facendo. E rispondo alla domanda sulla variabilità delle alleanze. Ecco come il nostro alleato militare è diventato il nostro nemico monetario, che sta fracassando la nostra economia. Ora, questo è un esempio di che cosa significa l'urto che si sta prendendo. Ecco, a proposito delle linee di faglia, ecco, vedete che cosa significa? Bene. Ma la globalità, mi dice Gualandri, è reversibile? No, la globalità non è, nessun processo storico è mai reversibile. Una delle prime cose che dovete imparare per pensare storicamente è che nessun processo storico che metta radici è mai reversibile. Lascia sempre una traccia, non è eliminabile. Può essere trasformato, può essere inglobato, si può anche restaurare certi equilibri ma riassorbendo cicatrici. In genere però la storia che viene dopo è sempre diversa da quella che si è già scritta. Uno che ama Popper come te dovrebbe sapere che la critica allo storicismo di Popper va in questo senso. No, no, te lo dice uno che ha avuto il suo periodo popperiano, perché io ho sempre detestato lo storicismo e la critica di Popper allo storicismo è quella che mi ha convinto più di tutte. Poi però ho criticato Popper per altre cose. In ogni caso, tornando a noi, la storia non ha dei binari, però presuppone sempre quello che c'è stato. La globalizzazione c'è, non puoi cancellare la rete, non puoi cancellare le tecnologie dei trasporti che consentono fenomeni migrativi come quelli che hai. Il problema è che la globalizzazione non è detto che debba essere una cosa, può anche essere fatta in modo diverso. Il vero problema è quale globalizzazione e come. Ah sì? Va bene, va bene. Scusate ragazzi, ci rivediamo giovedì. Allora, il ruolo dei paesi considerati mercanze tipo Iran, Iraq, eccetera, non immaginare per niente, perché se questi cominciano ad alzare la testa e rompere le balle, la rottura di faglia può succedere anche lì o no? Sai, grazie, scusa, la guerra non è, non sparire la abbiamo un anno, sì, un paio di volte. E tu la prima guerra mondiale sei tentato di Sarajevo, sì, ma non perché la Serbia fosse importante, ma perché della Serbia non, però il gioco di alleanza per essere del però è successo là, ciao, ci vediamo, non ho capito.